Fuori piove grandine, piove a ciel sereno. Non ho più Coca-Cola, neanche un po' di vino. Al televisore ho tolto il volume. Non voglio sentir parlare di un'altra guerra, di un altro orrore. Oggi me ne fotto, devo pulire la camera da letto. Non ci sono per nessuno, questa sera esco protetto. Non cercatemi, sono assente, indisponibile alle domande. Ho ben altro a cui pensare, questa sera mi voglio divertire. Mi trovo con gli amici a far baldoria in un locale. Ehi, da quanto tempo non ci vediamo, dolce amore? Ah, stai, qualcuno, scusa, proprio non lo sapevo. Allora ciao, ci sentiamo, per dirci cosa, il mondo è proprio strano. Mi volto e mi rivolto, un bicchiere dopo l'altro. Mi giro e mi rigiro, poi mi ritrovo davanti a un mito. Una bimba piena di ormoni, che mi guardava con gli occhi pieni di voglia, di carezze, di semplici allusioni. Oggi me ne fotto, faccio un passo dopo l'altro, mi avvicino alle sue labbra e cresce la mia voglia. Due parole buttate lì, come due mucche su un divano, è bastato un giro di chiavi per andare lontano. Ma quanto sei carina, da quanto tempo sei in città? Perché non ti ho visto prima, ma sei un sogno o una realtà? Dai che ci divertiamo, dammi il tuo cuore, dammi la mano. Ti porto a baciare il mare, dai che è un pezzo che non piove. Ci siamo sistemati in una stanza nella penombra. Le mie mani accarezzavano il suo viso, la sua presenza. Poi un dubbio mi è salito, ma non poteva essere così. Meglio verificare, ma qualche cosa non era normale. Mi trovai a fare l'amore con un uomo con due seni. Io provai a chiedergli scusa, ma lui non voleva sentire ragioni. Mannaggia me che cieco, non ho visto il treno partire. Mannaggia la miseria, ma proprio a me doveva capitare. Ma sì che sei carina, ma io non posso baciare la luna. Lo so che sei stupenda, sei anche troppa, troppa abbondanza. Ti voglio un sacco di bene, ma questa sera non si muove voglia. Non prendertela tesoro, ti chiedo scusa, ti chiedo perdono.